Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Il mese di marzo è per due terzi nell'inverno, ma noi quando arriva marzo ci sentiamo già in primavera, e con la primavera, per fortuna, cominciano a riaprire le grandi ville storiche in Italia. E una di queste, che non è storica, è una villa recente, è il ormai celebre Labirinto di Franco Maria Ricci a Fontanellato, nelle campagne di Parma. Il Labirinto di Franco Maria Ricci è un luogo straordinario perché nasce dal sogno di questo editore, che ha sempre sognato di crearsi una casa particolare attorniata da un labirinto fatto di bambù, e questo sogno si è avverato. Questo luogo è il luogo, naturalmente, dove la natura e la cultura si incontrano, perché noi siamo tenuti ad attraversare questo labirinto e a uscirne, naturalmente. Però, usciti dal labirinto, abbiamo la possibilità di entrare nella casa museo di Franco Maria Ricci, che è un raffinatissimo collezionista, in particolare di arte antica e neoclassica, e che offre ai suoi visitatori naturalmente una serie di iniziative che rendono ogni volta interessante venire al labirinto. In questi giorni, per esempio, rientrano le opere di Adolf Wildt, che sono venute a Milano, quindi c'è questa riappropriazione delle opere, ma ci sono anche degli appuntamenti importanti, per esempio la bella mostra su Gaetano Gandolfi e i volti della scienza, una serie di ritratti dei più importanti botanici che erano vissuti nella Bologna del Settecento. Il labirinto è un luogo molto particolare perché è stato costruito in uno stile neoclassico da un architetto però contemporaneo, che si chiama Piercarlo Bontempi, un architetto che ha fatto della sua attività proprio il recupero della grande tradizione costruttiva italiana dal Rinascimento al Settecento. Naturalmente in Italia questo tipo di rievocazione, diciamo, architettonica non è molto apprezzata. Questo architetto è celebre soprattutto all'estero ed è amatissimo dal principe Carlo, che guarda caso ha firmato la prefazione del volume che raccoglie i suoi progetti e i suoi disegni. Però è un'esperienza molto interessante perché si capisce molto bene come Franco Maria Ricci, che si definisce un uomo neoclassico, abbia voluto inserire nella meravigliosa campagna di Parma le tracce di una cultura illuministica che questa architettura, fatta di piramidi, di arcate, di ali, eccetera eccetera, molto ci comunica. Quindi vale la pena un viaggio nel labirinto di Franco Maria Ricci.